Elia Media. An alternative arts, multimedia channel. Radio Elia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in piazza Pontoni. Ignoti approdi, quali trasformazioni sta attraversando Bologna, quali futuri possibili realizzerà e quali approdi scarterà? Se ne parla con economisti, architetti, scrittori e altri sguardi per ipotizzare, analizzare, sfruttare gli approdi possibili e creare un agire in comune. Elia Media, un alternative arts, multimedia channel. Dal 15 di ottobre, dalle 16 alle 20, in piazza Pontoni. www.aeliamedia.org. Ciao! Ciao a tutti, sono sempre Kate Barandi con Ignoti Approdi. Questa è la mia ultima ora per la giornata, ma anche per la mia programmazione radiofonica. E si conclude con ospiti assai interessanti, come sono stati anche tutti gli altri ospiti nel corso delle varie puntate. Stasera avremo con noi a chiacchierare i ragazzi di ciclo Stile Architetture, che sono Alessandro Miti, Giacomo Beccari e Gaia Kayamask, e ci raggiungeranno a breve anche il sociologo Stefano Sissa e l'assessore all'urbanistica e al brand marketing territoriale Matteo Lepore. Nell'attesa noi iniziamo la nostra conversazione. Il titolo dell'incontro è arrivato anche il nostro sociologo Stefano Sissa. Il tema dell'incontro è partecipazione e trasformazione sociale urbana di Bologna, partecipazione intesa come anche condivisione, quindi accoglienza e integrazione, se vogliamo. Tutti quanti più o meno lavorate sul tema della partecipazione, Ciclo Stile lavora soprattutto sul tema della partecipazione da anni, ormai da quando vi siete anche formati. La cosa particolare è che notavo che avete tutti una formazione legata a un percorso estero di architettura urbana partecipativa, però soprattutto all'estero, e avete fatto anche degli progetti interessanti qui a Bologna. Cosa vuol dire fare architettura con uno sguardo all'urbanistica partecipativa a Bologna? Poi faremo intervenire anche il nostro sociologo. In realtà è In realtà Bologna è il terreno forse più fertile dove inserire pratiche di questo tipo, perché l'urbanistica emiliana negli ultimi 50 anni è sempre stata all'avanguardia, per cui noi proseguiamo nel solco lasciato dalle tradizioni nel solco della tradizione lasciato dagli urbanisti precedenti e utilizziamo questo invece strumento innovativo per indagare nuovi metodi di gestione e governo del territorio. Questo dell'urbanistica partecipata è un metodo particolarmente incisivo, perché si basa sulla possibilità di creare consenso prima di un progetto e quindi in qualche modo di far sì che questo progetto non sia poi ostacolato dai cittadini o da altri enti che vanno a vivere il territorio. E noi abbiamo avuto la fortuna di iniziare questo percorso insieme al comune di Marzabotto nella frazione di Panico e poi l'abbiamo replicato invece a Calderara nell'area Paradisi, che è un'area del centro di Calderara che doveva essere completamente ripensata dal POC. Ma mi chiedevo, quando si parla di partecipazione, quindi dialogo col cittadino, bisogna però considerare che la città si sta trasformando, nel senso che anche la compagine cittadina si sta modificando e modifica anche in qualche maniera la fruizione degli spazi. In effetti era anche un Ne avevo parlato anche di questo in una piccola scheggia di un programma la settimana scorsa, insieme anche a dei vostri colleghi di Rizoma. Quanto e come è cambiata quindi anche la cittadinanza di Bologna? In questo caso te lo chiedo a te, Stefano. Per chi deve fare un progetto architettonico, comunque un progetto in questo caso di architettura partecipativa, cosa deve tenere in conto? E poi effettivamente è vero che possa sempre funzionare? Chi vengono coinvolti quando si fa un progetto di questo tipo partecipativo? Beh, dunque io faccio una considerazione, diciamo, nella prospettiva dei miei studi di scienze sociali, naturalmente, quindi non sono strettamente dentro le tematiche dell'architettura o dell'urbanistica, però volevo ragionare qualche minuto un po' su Bologna, la sua conformazione da un punto di vista proprio della forma della città e anche appunto della composizione sociale, per capire un po' quali sono i rapporti tra spazi, tra praticabilità degli spazi e persone che riescono effettivamente ad aggregarsi e poi tradurre questa spinta alla socialità in qualcosa di radicato e un po' permanente. Spero di non rubare troppo tempo, non so, magari mi date voi qualche segnale. Sì, non ti preoccupare, faccio io da moderatrice. Volevo fare un ragionamento intanto sulla forma della città Bologna. Bologna ha una pianta medievale, è una città, naturalmente, che poi è stata molto rimaneggiata con molti interventi, però è una città che già solo nella sua stessa pianta dà questa idea un po' di grembo che accoglie, dove anche però poi in questo grembo con mille volute ci si può anche perdere, e la perdita, il perdersi dentro questa struttura urbanistica così un po' contorta, anche se poi ci sono alcuni assi viari molto netti, in realtà è molto connotata da quelli che sono i profili fondamentali dell'economia bolognese, che sono naturalmente il commercio e tutta, come dire, l'indotto dell'università. Ecco, rispetto a questa dimensione, Bologna è una città che ha una lunga tradizione che gli ha garantito anche una forte affluenza in questi decenni e anche, come dire, un credito che, se anche negli ultimi anni un po' è diminuito, però tutto sommato ancora in molte aree d'Italia, dal Veneto soprattutto il Meridione, spinge molti ragazzi a venire a fare l'università qua e poi magari anche a cercare una collocazione professionale qua, sempre meno però, per una serie di motivi che forse sarebbe anche bene affrontare con gli altri. Ecco, allora, quello che mi chiedevo è proprio questo, me lo chiedo come, diciamo, sociologo critico, no? Perché la sociologia può essere a servizio dell'amministrazione, oppure, e quindi anche un po' apologetica, oppure viceversa, insomma, porre delle questioni. Ecco, quali sono gli spazi urbani e le situazioni in cui effettivamente è possibile per le persone trovarsi e creare una socialità, non dico permanente, perché oggi niente è permanente nella modernità liquida, però che riesce a tradursi in qualcosa di continuativo? Effettivamente io credo che a Bologna ci siano tanti soggetti, tanti luoghi, tanti ambienti, però nei fatti difficilmente c'è uno spazio con una qualche riconoscibilità e durata che possa consentire questo radicamento. Bologna è una città in cui la gente viene, ma anche facilmente va, perché non è facile per molte persone riuscire a trovare una collocazione professionale qua, molti vengono qua per studiare, poi tornano al loro paese, oppure viceversa cercano di fare un salto verso realtà più ampie, che può essere Milano, Roma, l'estero, eccetera, no? E tutto questo pubblico di persone che potenzialmente sono una risorsa per la città, e non dico solo perché portano soldi, quindi non solo da spremere, ma anche, come dire, potenzialità creative ed eventualmente anche critiche, capacità professionali che hanno acquisito spesso qui, ma non solo. Ecco, tutte queste persone come possono essere rese funzionali nel senso migliore del termine a questa città? Io ho osservato, abitando da 15 anni in questa città, che in realtà, anche se l'amministrazione dà spazio a progetti, c'è creatività, ci sono molti soggetti, però in realtà c'è stata una diminuzione effettiva degli spazi. E questa diminuzione qui la si può vedere in tanti aspetti. Io, come dire, uso un approccio un po' sintomatologico, si possono vedere tante cose a livelli diversi che sono tutti indicativi. Faccio un esempio: ultimamente quelli di Bartleby e anche alcuni della rete degli indignati hanno proposto di appropriarsi periodicamente dello spazio della piazza coperta in sala borsa. Lo spazio di Piazza Coperta in Sala Borsa è uno spazio che, dove c'è molto passaggio per fruire della biblioteca, per riscaldarsi un attimo, ci sono mostre, eccetera, ma fondamentalmente non si vedono gruppi di persone che partecipano della città lì dentro, se non gruppi di anziani, piccoli gruppi di anziani, perché evidentemente hanno una consuetudine a farlo, perché nei decenni scorsi erano abituati a vivere la piazza ancora un po' come una agorà, ecco. Non succede a Bologna, non succede perché c'è adesso questa richiesta di sfruttare questo spazio in quel senso, è una richiesta estemporanea, però forse andrebbe raccolta sia dall'amministrazione pubblica che può fare dei progetti, sia dai vari soggetti che lavorano nell'ambito sia insomma della pianificazione urbana che anche delle attività culturali. Però non sono così sicuro che da parte di chi amministra la città, e non mi riferisco all'ultima amministrazione che è da poco che è in carica, ma in generale negli ultimi decenni, addirittura negli ultimi 20 anni, ci sia questa volontà certa. E perché potrebbe non esserci? Questa è una mia ipotesi critica, poi naturalmente se ne può discutere. Uso una metafora. Negli ultimi anni chi fa politica, nei grandi partiti, insomma, e che poi quindi anche nelle amministrazioni, si lamenta che ci sia un calo di iscritti nei partiti, no? Ma in realtà non siamo poi così sicuri che ai partiti dispiaccia del tutto che ci sia un calo di iscritti, perché la tendenza dei partiti negli ultimi anni è in realtà di avere pochi iscritti, perché gli iscritti sono anche, come dire, una massa critica che può essere esigente e anche mettere un po' in discussione la linea della nomenclatura. E piuttosto che avere molti iscritti, è bene avere tanti votanti quando è il momento, che sono attivati attraverso delle campagne elettorali di marketing efficaci. Tutto questo per dire che da una parte si dice vogliamo più partecipazione politica, vorremmo avere più iscritti, più gente nelle sezioni che discute, che fa, che propone, però poi in realtà sotto sotto forse è anche vero che ai vertici fa anche un po' comodo così, che non ci sia poi tutto questo coinvolgimento e partecipazione reale. Allora, fuori da questa metafora, arrivando adesso allo specifico di Bologna, spazi e cittadinanza e composizione sociale, a Bologna ci sono tanti soggetti, tanti gruppi creativi che spesso, come dire, nascono dall'esperienza comune fatta all'università, eccetera. Il comune sembra abbastanza attento, tutto sommato, pur nelle difficoltà anche delle, come dire, bilanci sempre più risicati, poi la crisi economica, eccetera, eccetera. Sembra avere una certa attenzione a tutte queste soggettività, però in realtà in una costellazione, in una galassia un po' di dispersa, no? C'è molta dispersività, e l'idea di lasciare spazio a tanti soggetti apparentemente è, come dire, una opzione molto libertaria che favorisce la creatività, no? Che mille fiori fioriscono, eccetera, eccetera, però sotto sotto potrebbe anche essere che è un po' un affidarsi a un'idea di società civile in cui poi alla fine l'amministrazione pubblica non si prende una responsabilità reale di promuovere uno spazio di cittadinanza effettivo che potrebbe eventualmente avere anche quegli effetti, diciamo, non graditi per l'amministrazione in una logica di governance. Cioè l'amministrazione vuole gestire, non necessariamente promuovere un cambiamento. Ecco, quindi chiudo perché poi non vorrei prendere troppo spazio, vorrei lanciare un po' questa provocazione rispetto al tema appunto spazi, partecipazione e composizione sociale, perché non è detto che tutto quello che sembra funzionare in questa città poi funziona nella direzione migliore. Esatto, penso che Alessandro ti voglia rispondere. Sì, in realtà hai toccato moltissimi temi della professione anche dell'architetto quando si relaziona col tema dell'urbanistica partecipata, anche parlando da un altro punto di vista, però le tematiche che emergono sono simili e i principi fondamentali si ritrovano tanto nella macrostruttura quanto nella microstruttura, si ritrovano tanto nella politica quanto nell'amministrazione, cioè tanto nella politica, diciamo, nazionale quanto nell'amministrazione locale, tanto nell'amministrazione locale quanto nelle piccole amministrazioni intorno a Bologna. E l'ultima domanda che tu facevi, cioè portando la tua ultima domanda sul nostro piano, quello dell'urbanistica, è interessante rilevare come in effetti ci sia anche la questione di quanto far partecipare la gente poi dopo all'urbanistica partecipata. Cioè è chiaro che comunque si parla di questioni tecniche, quindi ci deve essere un grado di controllo comunque dei tecnici su questo tipo di urbanistica. Però partendo un po' da alcuni appunti che ho fatto mentre parlavi, quando parlavi della composizione, ad esempio, sociale, dell'attitudine degli anziani a partecipare, ti dico che è assolutamente vero che gli anziani hanno ancora modo e l'abitudine di partecipare e di relazionarsi e confrontarsi anche su temi seri. Questo almeno è quello che abbiamo visto nei nostri laboratori, cioè una grande presenza di anziani, per fortuna non solo quello, però una grande presenza sempre di anziani, che anche per ovvi motivi di tempo e di minori necessità sono più presenti, però è anche, penso, un'attitudine che hanno oltre al tempo. Abbiamo visto una composizione appunto variegata, abbiamo notato che ogni tanto qualche giovane era interessato all'argomento, e quindi questo della composizione del gruppo che poi partecipa agli incontri di urbanistica partecipati è un tema fondamentale, perché riflette la società, riflette come la società partecipa alla vita pubblica e riflette anche e ti fa capire poi come in realtà viene settorializzata la decisione finale, cioè la decisione finale non è la decisione di tutta la popolazione, la decisione finale è la decisione di un gruppo settorializzato di persone che hanno un certo background, certe conoscenze, certe idee già precostituite e che poi dopo le portano all'interno del laboratorio. Sugli spazi di Bologna, quando tu ti interrogavi perché c'era questo decrescere di luoghi pubblici da vivere e da condividere, questa è una percezione che abbiamo ovviamente avuto tutti, e la percezione che la politica abbia un peso in questo processo è chiara ed evidente. Però, secondo me, a Bologna non mancano gli spazi dove incontrarsi, non mancano gli spazi che hanno questa attitudine. A Bologna mancano degli occhi nuovi con cui guardare la città, cioè a Bologna mancano delle persone che sappiano trasformare delle scenografie che già ci sono in spazi atti alla condivisione e al confronto. Infatti, a questo proposito, noi abbiamo appena promosso un evento insieme a CEFA, che è stato quello dei 10.000 piatti in piazza, dove abbiamo potuto vivere insieme a Bologna un momento di pixel art condivisa, l'abbiamo chiamata noi, però è il fatto di cercare di fare qualcosa che aveva uno scopo, in questo caso di solidarietà, ma aveva uno scopo non meno importante di riportare la cittadinanza di Bologna tutti insieme a parlare di un tema. Per cui in realtà, secondo me, gli spazi a Bologna ci sono, bisogna saperli tirare fuori attraverso l'architettura, attraverso la gestione del territorio, certamente non mortificando le aspirazioni di alcune fasce sociali, tipo i giovani che non riescono a vivere la città come vorrebbero. Infatti, come sottolineavi tu, già nel momento in cui si organizzano le riunioni partecipate per decidere, i giovani in qualche maniera si escludono o si autoescludono o comunque vengono esclusi, e in qualche maniera sono loro che potrebbero disegnare la Bologna futura, o no? Certo, anzi. La parola a Giacomo. Eccomi. No, io mi volevo ricollegare a quello che diceva Alessandro, condivido le sue idee, il suo punto di vista, in particolare mentre parlava Stefano, ragionavo e mi veniva in mente il fatto che adesso, ai giorni d'oggi, come direbbe un anziano, è cambiato magari il modo di fruire anche questi spazi pubblici, nel senso che questi spazi così centrali, prima parlavamo della piazza coperta, possiamo parlare di piazza maggiore per generalizzare, no? Comunque questi spazi così centralizzati hanno una fruizione più complicata al giorno d'oggi, perché sono più complicati da raggiungere magari. Allo stesso tempo vengono messi sullo stesso piano e quindi vengono proposti come spazi di socializzazione altri spazi, possono essere i centri commerciali. Quindi diciamo sono delle dinamiche che noi conosciamo benissimo, tutti abbiamo sotto i nostri occhi, sono delle dinamiche che stanno cambiando il modo di fruire lo spazio pubblico, stanno cambiando lo spazio pubblico in sé e quindi necessitano dell'intervento, della mano di chi conosce la materia, il sociologo, l'architetto, insomma chi riesce a dare una propria idea, un proprio punto di vista per aggiornarsi su cose che non sono più come erano centinaia d'anni fa o anche solo 50 anni fa. Quindi l'intervento esterno in qualche maniera, qui mi viene un po' forse a mancare la partecipazione, o no? Ho capito male? No, hai capito abbastanza bene. Dico che appunto bisogna riragionare su questi concetti, no? Quindi cos'è lo spazio pubblico, perché magari adesso non si partecipa, non si vede una forte partecipazione da parte dei giovani, stavamo dicendo. E quindi bisogna riragionare, no, su questi punti. Ma infatti vi chiedo a tutti quanto di rispondere. Che cos'è ora lo spazio pubblico? Perché penso che anche il termine, il concetto di spazio pubblico ultimamente sia cambiato notevolmente. Possiamo partire da Stefano e poi passiamo anche a Gaia, che è quella più silenziosa. Sì, infatti questa è una delle questioni cruciali, come intendiamo lo spazio pubblico. Naturalmente esistono degli spazi nuovi, perché magari ci sono delle iniziative tipo film, concerti, anche negli spiazzi dei centri commerciali, nelle periferie, per dire, no? Però attenzione, perché spazio pubblico può voler dire una cosa, cioè che ha a che fare con l'opinione pubblica intesa come sfera della società civile che attenta. Stefano, ti guardavo perché ti interrompevo, perché sta arrivando il nostro ultimo ospite, che è appunto l'assessore Matteo Lepore. È venuto al momento giusto perché ho fatto una domanda collettiva: che cos'è lo spazio pubblico ora? Vi presento quindi Alessandro. Quindi partendo da qua, da Giacomo, lui è Giacomo, Stefano stesso, Gaia. Io Alessandro, loro tre sono delle studier che ciclostire, Stefano Sisse è sociologo. Quindi finiamo di far rispondere a Stefano e poi facciamo il giro. Sì, appunto dicevo, spazio pubblico può significare due cose. Può significare lo spazio in cui la società civile, con tutte le sue articolazioni, si appropria della città in termini propositivi ed eventualmente anche critici, perché quando nasce la sfera dell'opinione pubblica verso gli inizi del Settecento ha quella funzione lì, cioè si oppone, diciamo, ad un potere che governa assolutisticamente con i suoi arcani imperi, no? Cioè con i suoi misteri del comando, e nelle piazze, negli spazi appunto partecipati della città, appunto della città, non delle campagne, nei centri delle città, si crea, nei centri naturalmente, anche nei bar, nei club, ecco, si crea questo tessuto di opinioni, di associazioni, eccetera eccetera, che può fare da contraltare ad una univocità del potere. Quindi lo spazio pubblico inizialmente è quello, come del resto poi per certi aspetti era anche nella Grecia antica, anche se non emergeva l'aspetto critico, però comunque l'agorà era lo spazio fisico della partecipazione. Ecco, oggi per spazio pubblico spesso si intende lo spazio della rappresentazione, dove le amministrazioni, a volte di concerto anche con le associazioni dei commercianti o altre soggettività economicamente rilevanti all'interno del nucleo urbano, creano degli eventi, che può essere dalla mostra alla happening eccetera eccetera, che hanno una funzione partecipativa tra molte virgolette, cioè nel senso che sì, probabilmente il pubblico, cioè chi vive la città, chi frequenta le strade, le vie, le piazze, viene in un qualche modo suggestionato, coinvolto da queste iniziative, però bisognerebbe un po' intendersi se questo è il pubblico inteso come sfera pubblica o se questo è il pubblico nel senso della società dello spettacolo, ecco, no? Il pubblico che assiste lo spettacolo. Ecco, allora su questo io credo che bisognerebbe un po' ragionare, perché l'impressione che ho, appunto in riferimento alla vocazione un po' mercantile che questa città ha e che naturalmente non può non avere, non è sbagliato che abbia, ecco, però non vorrei che poi la partecipazione e gli spazi di partecipazione dovessero essere ridotti solo a quello, ecco. Diciamo che la domanda che cos'è lo spazio pubblico è un po' una domanda astratta, perché a mio avviso lo spazio pubblico non può avere una definizione, è ovviamente dipende dalla società che lo vive. Uno spazio pubblico è diverso al Polo Nord, è diverso in Africa, è diverso da noi nelle città dell'Occidente. È chiaro che noi adesso vediamo un po' di, tra virgolette, un degrado dello spazio pubblico, ma perché a mio avviso è un periodo dove la società sta cambiando molto velocemente, quindi gli spazi pubblici sono poco riconoscibili. Molti spazi pubblici, tra virgolette, adesso si trovano in internet, sui social network, quindi molte persone in realtà vivono la loro socialità e il loro spazio pubblico in una vita virtuale, quindi probabilmente è anche difficile in questo momento capire e dare una definizione di spazio pubblico, proprio perché è un momento di grande cambiamento. Quindi diciamo che attualmente a Bologna, poi noi siamo abituati a vivere le piazze, a vivere i portici, però con sempre un minor afflusso, e penso che sia dovuto molto al cambiamento veloce della nostra società. Anche l'assessore vuole rispondere? Mi sono perso la domanda perché sono arrivato dopo. Cosa vuol dire adesso il spazio pubblico? Come infatti loro ragionavano sul cambiamento del concetto proprio di spazio pubblico. Il tema della trasmissione era appunto la partecipazione e trasformazione sociale e urbana di Bologna, e partecipazione anche vista come condivisione, quindi anche accoglienza e integrazione. Quindi stavamo appunto dialogando su il punto nodale, quindi che se si parla di spazio pubblico, che cos'è lo spazio pubblico e soprattutto che tipo di trasformazione sta avendo in questo periodo, e se si può ancora parlare di spazio pubblico, cioè se lei appunto, Gaia diceva che è un concetto astratto parlare di spazio pubblico. Ma mi verrebbe da dire che lo spazio pubblico oggi è un concetto sicuramente astratto, però sociale e politico allo stesso tempo. Ci può essere uno spazio pubblico solitamente inteso in una dimensione urbana, quindi chiaramente la piazza è il classico esempio di spazio pubblico, come anche il centro commerciale è il classico esempio di spazio pubblico, e in una accezione completamente diversa, quindi spazi condivisi dove vissuti dalle persone che acquistano un'identità anche sulla base delle relazioni che le persone hanno fra loro. Spazio pubblico però io credo sia anche qualcosa che si costruisce e che non esiste magari in precedenza. Quando Roberto Saviano ha fatto il tour nelle librerie di presentazione del suo libro, ha citato ad esempio il concetto di spazio pubblico, mi ricordo, rispetto al fatto che lui, attorno alla presentazione di un suo libro, che era un evento meramente commerciale, stava costruendo però una nuova dimensione dello spazio pubblico in una libreria dove migliaia di persone arrivavano in tutte le librerie delle città d'Italia dove è andato a discutere dei suoi temi, ed era un evento sociale, perché le persone comunque non semplicemente andavano a comprare o a prendere un autografo di un autore, ma andavano lì per esercitare un esercizio anche democratico, di coscienza critica e di approfondimento rispetto ad un tema che sentivano importante per la società oggi. Spazio pubblico è anche qualcosa che si costruisce ad esempio sulla rete. Nel momento in cui attraverso i social media, ad esempio, persone si aggregano attorno ad un tema, anche in maniera indiretta, e costruiscono un interesse, un movimento o la discussione attorno ad un tema, stanno costruendo uno spazio pubblico che chiaramente può avere rilevanza sociale e anche politica, come abbiamo visto, penso, anche nel mondo arabo o nel Mediterraneo. Quindi spazio pubblico oggi può voler dire tante cose ed è molto legato, credo, a quelle che sono le identità, ma anche le relazioni, i movimenti sociali e politici che ci sono nel mondo, insomma, di oggi. In effetti, molte questioni sul tavolo. posso darti del tuo. In effetti tu citavi anche spazio pubblico, che sono anche gli spazi virtuali. Spazi virtuali che in qualche modo entrano nella nostra vita reale, che quindi cambiano anche il modo di vivere la città, che è quello che stavi sottolineando anche tu. E che quindi anche per chi deve progettare una città per il domani deve sempre di più tenere in considerazione, perché fa sempre parte di quello che sono le trasformazioni e della la cosiddetta mobilità della cittadinanza. Ci si muove anche in rete, e quel muoversi in rete ha poi delle eventuali conseguenze anche nella nostra mobilità nel reale. Come si può affrontare? Poi farò a Matteo una domanda che ci eravamo chiesti prima sulla partecipazione. Si aspetta. Beh, il fatto dell'esistenza e della relazione di una progettazione rispetto al fatto dell'esistenza di una rete informatica è una questione che sta venendo sempre più fuori, ma io vorrei dire che ancora è marginale rispetto alla soluzione di problemi che sono molto più strutturali delle città italiane. Per cui è evidente che c'è il tema ed è evidente che va affrontato. È evidente che, ad esempio, rispetto a 50 anni fa, la gente magari lavora da casa e quindi non deve spostarsi. Questo può avere dei riflessi anche virtuosi sul traffico. È evidente che invece ha anche dei riflessi negativi, perché il fatto che tu possa fare sempre più cose in casa non ti permette di vivere lo spazio pubblico di cui parlavamo prima. Però in città come Bologna ancora il riflesso di questo fenomeno, secondo me, non è prioritario. È chiaro che una progettazione accorta va tenuto pronto, perché noi dobbiamo progettare per il futuro, non possiamo progettare per la contingenza. Per cui è interessante tener conto di questo fenomeno, soprattutto per le potenzialità, secondo me, che ha di condivisione rispetto a un progetto. Cioè, mentre prima noi per raccontare un progetto dovevamo riunire delle assemblee cittadine, raccontare nella specificità un progetto che magari uno poteva vedere in quell'unica occasione o no, adesso possiamo sfruttare la rete per condividere i progetti, per chiedere pareri. In molti dei nostri progetti condivisi noi abbiamo sfruttato la rete per chiedere, per indagare se alcune decisioni che stavamo prendendo fossero condivise o no. Cioè, abbiamo fatto sondaggi, abbiamo mostrato immagini del progetto di come verrà, per cui la rete diventa un meccanismo progettuale più che altro adesso, secondo me, ed è interessante per quello. Diventa un meccanismo che moltiplica la velocità di diffusione delle idee e pone sempre nuovi interrogativi, nuove questioni. Un esempio pratico è stato quando abbiamo fatto il progetto di B-City, che abbiamo studiato i percorsi ciclabili all'interno di Bologna, studiato in maniera un po' innovativa, e una delle parti di questo progetto era una parte di analisi legata a un format che noi abbiamo inviato in rete a una mailing list che ci ha risposto su tematiche precise. Prima di fare questo noi avevamo compiuto un'analisi, quindi avevamo un'idea comunque nostra riguardo a questo tema, però è bello vedere come persone che vivono totalmente Bologna, ogni parte di Bologna, ti rilevano delle criticità che tu da solo non puoi andare a riscontrare, o perlomeno che hai bisogno di molto più tempo per andare a riscontrare. Beh, infatti mi sarebbe piaciuto che ci fosse oggi un rappresentante del progetto Mappe Urbane, che, se sapete, è quel portale che è un progetto più ampio, però c'è un portale dedicato che vuole tracciare quelle che sono i percorsi anche proprio emotivi legate alla città, quindi una mappatura sulle problematiche anche proprio della città stessa. Infatti mi sarebbe piaciuto molto avere anche come ospite, purtroppo per motivi di impegni lavorativi che si sovrapponevano, non siamo riusciti ad averle. E in effetti questo mi porta anche all'esperimento che ha fatto anche l'assessore col T-Day, che è stato per molti aspetti positivo, probabilmente molti ne stanno parlando in questo momento, mi scuso se anche io ne parlo, però effettivamente, quindi esperimento positivo, però c'è stato anche un momento di criticità, quindi legato al T-Day, forse tutti i progetti non hanno un doppio aspetto ambivalente della positività per qualcuno e della negatività per qualcun altro. Però nel caso anche del T-Day, che si è voluto in questo caso ridare vitalità anche a una zona particolare di Bologna, ridargli anche un altro tipo di respiro, è stata anche una giornata dedicata a un jazzista che gli si è voluto dedicare anche una strada, quindi legandosi anche alla tradizione, una particolare tradizione anche di Bologna. Mi chiedo, effettivamente si può anche fare questo tipo di progetti anche per altre parti? Come si può evitare di scontentare meno persone possibili? Faccio questa domanda perché prima si parlava di partecipazione anche nella progettualità legata all'urbanistica, che si è notato che alle volte diventa un po' settoriale, perché alcuni settori della cittadinanza in qualche maniera vengono anche un po' esclusi. Forse è organico, forse non è, effettivamente succederà sempre così, però si può evitare, c'è un modo per evitare. Ma rispetto alla partecipazione sull'urbanistica, posso dire tanto citare gli esempi dei laboratori di urbanistica partecipata che ci sono stati a Bologna nella formazione del piano strutturale comunale, in particolare su alcune aree, la Bolognina ma anche altre. È chiaro che sono sempre strumenti importanti e utili di coinvolgimento che servono ad indirizzare le politiche e le scelte che anche l'amministrazione deve fare, considerando che comunque chi è eletto dai cittadini ha comunque anche la responsabilità da un lato di prendere delle decisioni, dall'altro poi di rendicontare quello che viene fatto, quindi poi alla fine la vera decisione è quella della politica, sempre. In questo caso ci sono due trucchi dietro la partecipazione, sicuramente. Uno è quello che alla fine influisce il percorso soltanto chi partecipa. Nei casi dei laboratori di urbanistica partecipata, sui quali do un valore assolutamente positivo, è chiaro che partecipano solo gli abitanti delle zone coinvolte o comunque le persone interessate. In alcuni casi, se si parla dei laboratori su aree ancora da edificare, è chiaro che non partecipano le persone che andranno un domani ad abitare in quei luoghi. Quindi è chiaro che le persone che poi andranno a vivere in quei palazzi si troveranno cose decise o che hanno avuto influenza o discussione coinvolgendo altre persone. E quindi questo già è un primo trucco non risolto. L'altro trucco è quello ovviamente che poi i cittadini votano appunto i rappresentanti nelle istituzioni, è chiaro che sono loro che costruiscono il percorso, quindi la partecipazione non è mai asettica e comunque deve essere informata e alla fine deve sempre avere una decisione. Questo per quanto riguarda una partecipazione legata, credo, all'urbanistica, una partecipazione esplicita. Poi ci possono essere altri momenti di partecipazione, come appunto i T-Days o altri eventi sociali, che influiscono sulle dinamiche che ci possono essere in una città. Sicuramente i T-Days hanno rappresentato uno spartiacque, perché la grande partecipazione dei cittadini e il successo dell'evento, soprattutto a livello di affermazione dello spazio pubblico nella T, cosa che solitamente viene vissuta dalle macchine, in quei giorni è stata vissuta dai cittadini, e direi anche affermazione di una identità diversa della città rispetto agli ultimi anni, perché gli ultimi anni Bologna è stata una città molto criticata rispetto a il divertimento, la vivibilità per le strade, la possibilità di fare cultura nelle strade, musica, e anche di avere un rapporto col mondo del commercio che fosse compatibile con, penso, la quiete notturna. I T-Days si sono verificati di giorno, però è indubbio che molte persone che poi sono rimaste il sabato sera per strada abbiano visto una Bologna che negli ultimi anni era nascosta, o comunque esisteva, ma nella rappresentazione mediatica o politica era considerata una Bologna che non esisteva più. Quindi l'effetto positivo è stato in questo senso potente e credo che vada replicato, aggiustando i difetti che i T-Days in alcuni casi hanno avuto. Sicuramente penso all'accessibilità della zona della T, perché persone che ad esempio possono essere anziane o disabili, probabilmente a piedi non hanno potuto raggiungere lo spazio della T, cosa che per esempio persone più giovani hanno potuto fare. Quindi questa è una cosa ad esempio da affrontare. In generale è stato un progetto di apertura di uno spazio e non di chiusura al traffico. 20 anni fa a Bologna è stata sperimentata la chiusura della T, in quel caso fu una sperimentazione del tutto legata a politiche della mobilità, non alla valorizzazione dello spazio pubblico. Noi abbiamo ribaltato questo concetto, abbiamo aperto la T ai cittadini e abbiamo organizzato attorno eventi culturali e un rapporto col mondo del commercio per valorizzare e far partecipare. Credo che sia stata una modalità indiretta e diversa di partecipazione, e il fatto che tanti pedoni siano andati nella T in quei giorni ha fatto sì che noi ci siamo convinti che fosse una soluzione giusta, tant'è vero che appunto da sperimentazione noi pensiamo di farla diventare una scelta permanente. Ma infatti hai prima citato una cosa che mi ha fatto aprire varie riflessioni, quindi faccio una domanda poi a tutti. Cioè, quando si parla anche proprio di spazi pubblici, quindi trasformazione, si parla anche di identità, che stavi citando prima, quindi identità di Bologna. Forse una volta tu prima hai citato alcuni aspetti dell'identità di Bologna. Forse ora non, mi sembra che Bologna abbia altre ulteriori identità. Penso che sia se magari prima Bologna veniva considerata come una città solamente per studenti, quindi ci si rivolgeva soltanto a un certo tipo di anche di, come dire, di progettazione o di problematiche, eccetera. Forse alle volte ci si dimenticava appunto la complessità identitaria della città, che è in pienissima trasformazione. Ad esempio c'è anche questo progetto, Alia Median l'ha fatto venire fuori, ci sono realtà anche di immigrati, come ben sappiamo, di comunità che si stanno organizzando per vivere gli spazi in maniera del tutto diversa da come lo vivrebbe un bolognese, però sono poi quegli immigrati che sicuramente, molto probabilmente, rimarranno stabili a Bologna e che quindi comporranno la cittadinanza futura, e che anche loro avranno probabilmente una partecipazione importante nel definire quello che sarà la città. E credo che nella programmazione, nella progettualità sia di un sociologo che degli architetti che dell'amministrazione stessa, bisogna anche pensare, quindi, come dire, a tutte le anime, mi rendo conto che la complessità sia effettivamente difficile da dover affrontare. Ma su questo poi magari passo la parola agli altri. Bologna è sempre stata, credo, una città molteplice, quindi con tante identità, lo è sempre stata. Il problema è sempre riconoscerlo, quindi a fasi alterne questa cosa si è riconosciuta. C'è sempre stato il rapporto città-università, residenti e studenti, il dibattito è sempre stato lì. In realtà Bologna ha sempre avuto molti più rapporti, perché di immigrati dentro Bologna ce ne sono sempre stati, anche se non erano extracomunitari, ma venivano dal sud o da altre parti dell'Italia, erano comunque immigrati, e comunque è sempre stata una città dove molte persone se ne sono andate, perché Bologna è una città che ogni dieci anni cambia il 50% della propria popolazione, è sempre stato così. È una città internazionale, perché comunque, soprattutto negli ultimi anni, grazie all'alta velocità all'aeroporto, ha dei flussi di passaggio molto forti, ed è una città che ha subito grandi trasformazioni, ha visto ondate di deindustrializzazione, ha visto ondate migratorie e anche fermenti culturali che si sono succeduti. Quindi è una città che ha tantissime identità. Il passaggio, a mio avviso, concettuale non è tanto quello di dire che ci sono i bolognesi e poi ci sono gli altri, ma è dire che comunque questa è una città dove sono tutti bolognesi e che quindi dobbiamo considerare che dobbiamo dialogare e interloquire rispetto a tutti i soggetti che vivono, anche se non hanno la residenza in questo territorio, e questo vuol dire assumerci noi l'incarico di parlare a tutti, ma allo stesso tempo anche a quei tutti che non necessariamente sono legati da un livello di primo grado con la città, anche quelli si devono assumere la responsabilità e il dovere di stare dentro a un'arena civica che è quella bolognese. Questo è il patto di cittadinanza che le città come la nostra debbono cercare di fare vivere. In grande, una città come New York risponde a questo stesso tipo di dimensione, credo. A New York tutti si sentono newyorkesi alla fine, anche se vengono da 10.000 parti del mondo. Bologna sì. È più o meno nel suo piccolo, però è più o meno questo. Se facciamo questo salto concettuale, allora capiamo anche che probabilmente gli immigrati non sono soltanto quelli che devono fare certi tipi di lavori, ma sono anche persone che ad esempio dovrebbero votare e dovrebbero assumere anche dei ruoli, degli incarichi pubblici, cosa che ad esempio oggi non succede. Sì, sono assolutamente d'accordo con gli elementi che sono emersi e poi vorrei aggiungerne altri. Sono d'accordo che siamo e dobbiamo sentirci tutti bolognesi. Sono d'accordo soprattutto che però la prima analisi, quella che si fa sempre, è che ci sono i bolognesi e gli studenti. Questo limita moltissimo la comprensione della composizione sociale di Bologna, che anche se siamo tutti bolognesi deve essere chiara, cioè bisogna che sia studiata. E secondo me noi non la stiamo studiando nel modo giusto, cioè non sono sufficienti gli strumenti che sono stati messi in atto per studiare la composizione sociale di Bologna. A una prima fase di analisi della composizione sociale deve necessariamente partire una fase progettuale importante. La fase progettuale deve riflettere le necessità della società che sono emerse dall'analisi e deve valorizzare il potenziale di tutte queste diversità attraverso iniziative e attraverso anche la responsabilizzazione, come diceva giustamente l'assessore prima, di queste persone. Non è pensabile che nell'amministrazione non siano coinvolte persone che non siano bolognesi o comunque che non siano italiane. Non è più pensabile che i ruoli di potere siano gestiti solo ed esclusivamente da bolognesi. Bisogna iniziare a innescare un processo virtuoso che porti a una commistione sociale nella idea che appunto siamo tutti bolognesi. Io racconto un'esperienza personale che è quella della mia dei miei 6 mesi che ho passato in Olanda a lavorare e voglio raccontarla in questo momento perché tutte le persone che arrivano in Olanda si sentono coinvolte, accolte, si sentono in qualche modo tutelate, però in realtà non è vero che poi persona che arriva lì dall'estero a lavorare tu puoi raggiungere tutti i ruoli di potere anche lì come qua, e questo voglio dire perché voglio dire che tutto il mondo è paese, non è che pensiamo sempre di essere i soliti italiani, no, anche là credo. Chiaramente alcune barriere risultano evidenti quando sale alcuni gradini sociali. Allora invece bisogna cercare di avere una visione un po' più aperta, un po' più libera. Non bisogna aver paura, soprattutto, che io penso che sia la questione che caratterizza qualsiasi rapporto. Cioè i bolognesi non sanno che c'è una certa complessità sociale fuori da loro perché non escono a vederla, a viverla. Hanno paura di tutto, si sono rinchiusi nel loro quattro mura, nella loro identità di bolognesi, un'identità alla Peppino e Don Camillo e Peppone, senza una grande voglia di aprirsi e di imparare da quello che ci sta intorno. Stefano? Sì, in linea di massima condivido quello che è stato detto, nel senso che sicuramente il tentativo che è stato fatto qualche amministrazione fa di recuperare un'identità bolognese, visto che si parlava di identità, attraverso questa visione ombelicale, no? Per cui la Bologna dei bottegai, la Bologna delle tradizioni, la Bologna della mortadella, insomma, come dire, una visione un po' pittoresca e sorpassata, che poi non ha avuto in realtà successo, perché quella identità lì, se mai c'è stata, comunque ormai non è più come dire, confacente a una realtà sociale, urbanistica comunque complessa e proiettata nel futuro come appunto Bologna. Tuttavia è vero che secondo me non si può soltanto fare affidamento agli appelli, cioè bisogna, perché in realtà poi sono come dire, gli spazi effettivi di praticabilità che consentono ad una società di cambiare il proprio volto sociale e non soltanto, come dire, le dichiarazioni di intenti. Naturalmente certe forme di chiusura da parte di chi è residente da tempo è normale e avviene persino in una città aperta e dinamica come New York, che naturalmente ha le sue lobby, i suoi circuiti protetti, pure quella. Però mi viene da dire che forse Bologna, anche se per sua natura, struttura, collocazione geografica, entità, perché è una città media, eccetera, eccetera, non può ribaltare completamente una serie di dinamiche, come ha detto giustamente l'assessore, sono tipiche già di decenni, cioè del fatto che c'è un ricambio costante, addirittura del 50%. Però forse c'è da chiedersi se una parte di quel 50% che se ne va non potrebbe essere invece un po' più attirato a rimanere qua, più facilmente radicabile, cioè che Bologna sia una città di passaggio, di transizione, a volte un trampolino, a volte un approdo rispetto al quale poi occorre tornare indietro. Ecco, forse non è un destino scritto, in parte è inevitabile, appunto per i motivi che dicevo prima, di struttura, entità, collocazione geografica, in parte forse dipende anche da alcune scelte. Allora io credo, per l'esperienza che ho, io per esempio vengo dalla provincia di Reggio Emilia, abito a Bologna da 15 anni e io per esempio non mi considero bolognese, naturalmente questo è un vissuto personale, però penso che valga per tante altre persone, perché a Bologna chi non è bolognese e chi non è entrato in alcuni circuiti di inclusività preferenziale, che però spesso hanno dei prezzi piuttosto elevati, di solito non si sente bolognese, in realtà, per quell'esperienza che ho avuto io. Magari appartiene a delle enclave, no? Etniche, diciamo anche regionali, intendo, no? Che so, i sardi, i calabresi, o addirittura le varie province della Puglia, eccetera, eccetera. Bolognesi si sentono pochi, perché appunto continua tutto sommato ancora a riprodursi questa cesura qua. I bolognesi, i residenti e chi è venuto qua spesso per studi e poi finiti gli studi ha cercato di inserirsi con maggiore o minore fortuna. Forse su questo bisogna appunto chiedersi cosa è opportuno fare, cosa è possibile fare, perché non è detto che sia possibile fare tantissimo, però in riferimento a quello che ho detto prima, cioè gli spazi pubblici, forse c'è da fare qualcosa in più. Cioè c'è tutta una fetta, secondo me, di domiciliati, se non residenti a Bologna, che fanno fatica a partecipare, che spesso scivolano verso forme di marginalità, alcune più flagranti, cioè quella che viene considerata marginalità vera e propria anche da uno che lavora nella pubblica amministrazione, ma a volte non sono marginalità flagranti, ma sono comunque spazi residuali che poi sono stati negli ultimi anni sempre più marginalizzati. Cioè penso per esempio a tutto quel sottobosco di giovani di solito non bolognesi che arrivano per fare l'università qui e non riescono a trovare una collocazione del tutto soddisfacente e che gravitano attorno a centri sociali o altre esperienze analoghe che negli anni scorsi erano più come dire, accentrati, perché comunque questi luoghi spesso erano nel centro della città o comunque liminari al centro, e invece negli ultimi anni sono stati delocalizzati, possiamo dire. Questa è una scelta politica, è una scelta amministrativa. Qual è l'effetto? Che si creano appunto degli spazi di margine dove persone potenzialmente partecipative, critiche, creative scivolano verso appunto la marginalità e anche forse forme di critica sociale, politica non sempre costruttiva, no? Cioè di opposizione puramente estetica, ecco, no? Che non ha poi una non si può tradurre poi in proposta. Viceversa, chi non scivola verso queste forme di marginalità tra virgolette tende ad una normalizzazione, appunto diventare bolognese anche lui, che però ha certi crismi, oppure all'enclave, no? Quindi in realtà finora questa scommessa qui di rendere Bologna una città più aperta, dinamica, in cui non c'è questa cesura tra i residenti e gli studenti o ex studenti, è ancora una scommessa tutta da vincere, io credo. c'è da chiedersi appunto cosa si può fare per fare questo salto. Chi vuole rispondere? Ormai siamo quasi in chiusura, direi che facciamo un piccolo, qualche minuto ciascuno, va bene, parte Giacomo, poi andiamo verso l'assessore e se vogliono intervenire Gaia e Alessandro. Ma io, guarda, in realtà sarò molto veloce perché le cose che sono state dette le condivido e mi sembrano abbastanza complete. È che parliamo tanto di spazio, di come lo spazio è cambiato, la fruizione dello spazio è cambiato, le necessità di spazio da parte di un cittadino sono cambiate, parliamo anche di tempo e di come, quindi ho imparato adesso, non lo sapevo, che l'essere bolognesi ha una scadenza, quindi no? Si è bolognesi per un certo tempo, poi si tende ad andare via o magari si è arrivati più tardi, però secondo me è giusto anche ragionare sul tempo e la percezione del tempo che è cambiata, non solo quella dello spazio, quindi il tempo di un bolognese che può andare a lavorare a Milano in un paio d'ore, il tempo con cui possiamo metterci in contatto con altri amici e darci un appuntamento. Non succede più magari che ci troviamo sotto il Nettuno e chi arriva per primo aspetta, ci mandiamo un messaggino e in due secondi possiamo indirizzare, no, le nostre mete. Prima ammetto che ero in ansia perché non mi vedevo, subito ad esempio ho telefonato a lui. Ecco, hai capito. E quindi inserirei anche questo fattore, oltre a quello spaziale, quello temporale. Solo, guarda, volevo sottolineare solo questo. Come dicevamo, c'è un signore che abita qui che giustamente ci faceva ricordare del tempo. A proposito, posso se rispondere con quello? Ma sì, penso che il signore sarà paziente. Allora, sulla cosa, molto velocemente, sulla questione del ci si ritrova, i punti di ritrovo, i punti di ritrovo cambiano ovviamente, penso che ad esempio i ragazzi di seconda generazione hanno tanti punti di ritrovo e sicuramente si trovano sotto il Nettuno, ma si trovano anche in altri posti e probabilmente noi non ne siamo neanche consapevoli e quindi a nostra volta non sappiamo anche quali sono le nuove dinamiche che ci sono, perché le dinamiche esistono e le si possono influenzare finché si vuole, ma comunque esistono sempre. E sulla questione dei centri sociali mi permetto di dire soltanto questo, che a mio avviso, guardando un po' la storia degli ultimi anni, i centri sociali si sono un po' decentralizzati da soli, nel senso che i centri sociali che storicamente si conoscevano a Bologna, che in parte hanno anche gli stessi nomi, hanno perso qualsiasi tipo di identità e progetto politico e culturale, spesso perché sono rimasti legati alle stesse persone. Perché se un movimento è tale e i centri sociali devono essere anche una cosa di movimento, cambiano anche rispetto alle persone che li vivono. Quando uno è un soggetto di movimento per 20 o 30 anni e quando fa di questo un lavoro o fa di questo anche un elemento di rivendicazione costante più per se stesso che per gli altri, diventa a mio avviso una diretta autoemarginazione. Nel senso, io ho visto anche negli ultimi anni diverse situazioni di centri sociali o di movimento a Bologna che ad esempio hanno perso molto della propria connotazione sociale, cioè sono stati più sul rivendicare cose a livello internazionale e di protesta che poi quando si erano in una città e si doveva fare qualcosa per la propria comunità, questa cosa non la si faceva. Sì, un po' si è... I centri sociali che una volta erano appunto collante culturale, che appunto dialogavano con l'intera cittadinanza o comunque cercavano di dialogare con l'intera cittadinanza, come dicevi tu, in effetti non si sono del tutto scollegati o appunto guardano altrove o guardano al piccolo, effettivamente sono diventati delle imprese. Forse era... penso che sia anche ciclico che questo succeda. Quello che mi stupisse è che non fanno fatica o non sorgono, fanno fatica a sorgere delle cose che possono prendere il posto di quelli che erano dei centri sociali, quindi o meno delle funzioni che avevano questi centri sociali, perché comunque centri sociali si parla sicuramente, tutti noi stiamo pensando agli anni 90, quindi a un Link ad esempio che faceva soprattutto cultura e anche di qualità, se noi pensiamo che furono organizzati anche dei seminari legati all'arte contemporanea, tra cui erano stati invitati degli artisti che hanno poi avuto una vita attiva artistica elevata e qualitativa. Tanto mi posso citare un Orese, perché lo conosco anche personalmente, che ha vinto l'anno scorso il premio TERN, è stato uno degli organizzatori di un importante seminario legato all'arte contemporanea, quindi c'era effettivamente voglia, necessità, energie per fare cultura, per fare informazione, eccetera. Forse ora questo tipo di funzione del centro sociale o comunque non c'è più, o effettivamente fa fatica a esserci. Probabilmente le dinamiche sono diverse, però ritengo che comunque le persone abbiano ancora di più voglia e necessità di incontrarsi e di organizzare, fare qualcosa, però forse deve ancora nascere i nuovi centri sociali, forse questi devono, magari nasceranno fra 3-4 anni, saranno totalmente diverse da quelle che erano negli anni 90, per forza. Ma in realtà io non penso sia proprio così, in realtà penso che adesso fare cultura è una cosa di una difficoltà tale dal punto di vista, e me ne sono reso conto in prima persona, se ne siamo resi conto quando abbiamo fatto con la pillola, che è quella che ha messo su tutto questo, quando abbiamo cercato di fare eventi come le Col del Rusco, come B-City. Fare cultura intanto si fa spessissimo a gratis, e quindi bisogna avere dei tempo e dei soldi propri. E poi dopo fare cultura c'è un'idea che è ancora quella un po' passata, che comunque sia ha bisogno di grandi sovrastrutture. Invece, ad esempio, quel libretto che abbiamo portato noi, che è la smallness, che è un po' l'idea concettuale che lega tutto il nostro lavoro, o perlomeno quello di ricerca, sta proprio nel cercare di fare tanto spendendo il meno possibile a livello economico, ma cercando di avere una struttura orizzontale fra i vari componenti di qualsiasi iniziativa, di qualsiasi lavoro. Cioè bisogna capire sul territorio quali possono essere le alternative e le potenzialità, e cercare di gestirle al meglio, perché ormai diciamo le economie spicciole per poter fare determinate iniziative iniziano a mancare, quindi è necessario trovare forme alternative. E quindi ritorniamo a una nuova forma anche di partecipazione, e così mi sa che Giacomo, se sei velocissimo, perché stiamo chiudendo, ma non abbiamo più tempo. Io vi ringrazio tutti quanti di aver partecipato, Assessore Lepore, Alessandro, Gaia, Stefano e Giacomo. Grazie mille per essere stati partecipati. Questo è il mio ultimo appuntamento, la mia ultima ora. Elia Media. Alternative Multimedia Channel. Radio Elia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Ignoti a Prodi, quali trasformazioni sta attraversando Bologna? Quali futuri possibili realizzerà e quali a Prodi scarterà? Se ne parla con economisti, architetti, scrittori e altri sguardi per ipotizzare, analizzare, sfruttare gli approdi possibili e creare un agire in comune. Elia Media. Alternative Multimedia Channel. Dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. www.aeliamedia.org